Bettini ha chiamato Nibali, Paolini, Ulissi, Marcato, Nocentini, Capecchi, Cataldo, Nizzolo, Trentin, Gatto e Moser. Non Francesco, ovviamente, ma Moreno, 25 anni dopo l'ultimo mondiale di Francesco. Ciao Francesco. Sì, buonasera, Troppo facile dire un altro Moser torna ai mondiali. vediamo, mi pare che abbia una buona condizione, è stato messo in squadra e credo che gli daranno anche delle responsabilità, perché nelle ultime corse che sono state fatte, insomma, è quello che ha dimostrato di avere una condizione migliore anche le, come dire, le caratteristiche di quel percorso che c'è a Valkenburg, che è un percorso un po' Sì. particolare. C'è questa salita a 1,5 km dall'arrivo. Tu hai corso lì qualche mondiale? Sì, l'ho Mi fatto nel pare, sì. 79 quando Battaglin è caduto, che si sono presi dentro con Thurau e ha vinto Rasper, però una volta Sì.